Innamorati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. L'atmosfera è bella, ma i bomboni non mancano mai. Neanche Pardo manca, ma arriva dopo perché ha problemi col cellulare. No, scherzo. Lo sentiamo alle 2:30, poi starà con noi. 800 24 00 24. Intanto aspetteremo insieme la prima Italia di Conte. Avrete letto, sentito da qualche parte che manca una vittoria al debutto per un commissario tecnico, neo commissario tecnico azzurro, da esattamente dal 1998, 16 anni fa. L'avversario era il Galles, il risultato fu 2-0 e il commissario tecnico al debutto era Dino Zoff. Viva Spagna! Ma intanto noi con Franco Piantini da CT per l'occasione, con Roberto Scaltriti in regia, Claudia Schiattone in redazione, abbiamo fatto la nostra Italia. Voglio chiedervi di fare la vostra. La nostra è questa qui. Sirigu in porta, Darmian e De Sciglio laterali, modulo 4-3-3 perché ci piace. Quindi Darmian e De Sciglio laterali, direi Chiellini e Ranocchia difensori centrali. A centrocampo Verratti, Perno, Vice Pirlo. A proposito, Buffon e Pirlo hanno dato tanto, tantissimo. Io direi che forse sarebbe il momento di un bel arrivederci e grazie, come d'altra parte era nei piani della vigilia del Mondiale, almeno per quanto riguarda Pirlo. Quindi Verratti, perno centrale della squadra, accanto a lui De Rossi a fare l'unico trait d'union tra quello che è stato e quello che verrà, con regolare fascia di capitano, eccetera. Poi dall'altra parte apriamo un ballottaggio tra Marchisio e Montolivo, quando starà bene. Per quanto riguarda l'attacco, i tre d'attacco, io metterei Balotelli punta centrale, ma possiamo aprire anche qui una parentesi con Destro, che è il giocatore che a me piace da morire. A sinistra El Shaarawy, se confermerà di essere tornato un eccellente giocatore di calcio. Naturalmente è molto presto, perché non dimentichiamo che l'anno scorso in tutta la stagione ha giocato poco più di 200 minuti in Serie A, quindi quanto visto finora non è sufficiente per dire che El Shaarawy, quello che ci ricordavamo, è tornato. E dall'altra parte io metterei Florenzi. Questa è la nazionale di tutti i convocati. Voi direte: e Giuseppe Rossi dove lo mettiamo? Al momento Giuseppe Rossi, poveretto, lo mettiamo in infermeria. Non è un giocatore abile arruolato. Certamente nel momento in cui tornerà ad essere un giocatore abile arruolato, un posto là davanti potrebbe essere suo. Questa è la mia idea, questa è la nostra idea. Curioso di confrontarmi con quella di Pardo, con quella degli ospiti che verranno e soprattutto con la vostra. 800 24 00 24. Intanto stasera vediamo la prima Italia di Conte, che è un po' diversa da questa. Sirigu in porta, e qui ci siamo, abbiamo la stessa idea. Difesa 3 con Astori, Bonucci e Ranocchia, un folto centrocampo a 5 perché così piace al CT, con da sinistra a destra De Sciglio, Marchisio, De Rossi, Parolo e Candreva, e davanti Immobile, star dello scorso campionato, star mancata ai mondiali, e il debuttante Zaza, che vuole diventare il più forte di tutti. Questa sarà la prima Italia di Conte. Ma sarà oggi il debutto non solo per Antonio Conte, sarà il debutto anche per Carlo Tavecchio come presidente federale. A proposito, anche qui voglio chiedere a voi: a me ieri ha fatto uno strano effetto vedere sul campo di Bari per l'allenamento della nazionale il neo presidente federale affiancato come un'ombra, come una sorta di tutor, dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, con tanto di giubbetto della nazionale italiana. Conflitto di interessi, secondo voi? Fosse stato qualche anno fa, magari Moggi, ad accompagnare con il giubbetto della nazionale italiana il presidente federale sul campo di allenamento della nazionale italiana, cosa avremmo detto? Traffico. Poi vi aspetto. 800 24 00 24. Caro ascoltatore, mi sono divertito parecchio ieri sera, anche se era un amichevole, nel guardare Germania-Argentina. Per la Germania era la festa del Mondiale, poco più di 50 giorni dopo averlo conquistato. Stesso avversario, una sorta di annacquato remake di quella partita, e credo sia venuto il mal di stomaco o il mal di pancia a Carletto Ancelotti nel vedere un giocatore straordinario come è stato ieri Di Maria, tre assist e un gol da favola, meraviglioso. Sta emergendo in questi primi tuoi giorni in azzurro che sei simpatico anche ai giocatori. Questa cosa ti preoccupa o è normale? No, il fatto della simpatia penso che sia un po' relativo, ecco. Io mi auguro che i calciatori apprezzino il mio modo di fare, ecco, di essere. Il mio modo comunque è molto molto trasparente, molto lineare, di una persona che comunque preferisce dire una brutta verità piuttosto che una bella bugia. Non penso, ecco, che ai miei calciatori passati delle mie squadre io comunque fossi antipatico, anche perché spesso e volentieri abbiamo vinto, e quando vinci comunque c'è sempre grande empatia sotto tutti i punti di vista, anche sul fatto della simpatia, ecco. Simpatico antipatico, Conte è uno che vince, non so se sia simpatico antipatico ai suoi giocatori, però ha ragione, normalmente quando vinci si va più d'accordo. C'è Carlo su Twitter che dice: ah, bella formazione ma non con Conte in panchina, quella che abbiamo fatto noi, arrendetevi e lasciate fare a lui. Ma certamente, stiamo giocando, mi interessa il vostro parere. E mi interessa anche quello di Roberto Renga, firma storica del giornalismo italiano, ciao! Sì, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Ci divertiamo a fare la nostra nazionale, la mia è questa. L'ho vista, l'ho letta, l'ho appena letta su Twitter. Cosa dici? È che hai fatto la difesa 4 intanto. Sì, 4-3-3. Non lo so. E hai messo Ranocchia, io mi avrei messo Barzagli, sì. Non avrei messo Montolivo probabilmente, ma avrei messo Marchisio. Beh, Marchisio Montolivo è un ballottaggio, eh. Metto Marchisio anch'io, Montolivo tra parentesi. È perché c'è Verratti che gioca bene la palla, sì. Ed è più bravo, c'è più qualità, sì. E Marchisio è uno che si inserirebbe, e sì. Poi c'è questo quesito del centravanti, cioè Balotelli lo chiamerà? No, secondo me no, no, non lo sappiamo. Ma perché non ci azzeccano, cioè, secondo me il vero punto è che mi sembrano due modi di intendere il pallone profondamente diversi, quello di Balotelli e quello di Antonio Conte, cioè, credo che non possano andare così d'accordo come personaggi, no? è vero, io in questo momento stravedo per un giocatore italiano che è Zaza. Tanto per il gol che ha fatto domenica, poi perché c'ha la faccia cattiva da centravanti, sì. Proprio sai di quello che dice: io sono nato per fare gol, per farvi del male, sì. E nella vita avrebbe fatto il killer, insomma, uno così, e tu sai che nel calcio non bisogna essere... Ma poi Roberto, a me piace da morire uno che dice: io voglio diventare il numero uno, io voglio diventare grande, a me piace uno così. Anche a me, e per cui in questo momento vado su di lui, uh-huh. E perché comunque è vero che con Florenzi e Sharabi, come avete messo voi, e ci sarebbero sugli esterni giocatori in grado di fare gol, però io penso che il centravanti, a meno che non sia Messi, no? Tu non abbia Messi, il centravanti debba essere sempre uno che poi mette la palla dentro piuttosto che girare al largo. Poi se c'hai Totti o Messi è un altro discorso, ma non ce l'hai. Destro no? A me destro piace da morire. Anche a me destro, sì, mi piace, però destro lo conosco, e poi a Roma dicono: porti avanti destro. Perché adesso a Conte ovviamente dicono: adesso convocherà gli Juventini, poi c'è Lilo Tito, quindi verranno convocati spesso dei laziali, poi magari qualche interista perché c'è Oriali. Quelli della Puma e il Balotelli della Puma, quindi il suo spazio l'avrà anche lui, e poi ripeto, faremo suffragio universale, convocazioni alle urne naturalmente. Oggi è anche un altro anniversario, sì. Come sappiamo, e tu lo sai benissimo, 20 anni c'eri, 20 anni fa. Ero già nato, ero allo stadio. Mi ricordo il lancio di Terme, il colpo di testa di Fonseca. Mi ricordo questo ragazzino che tiene la palla, che mise la palla subito dentro. È questa? Era Roma Foggia, prima partita di campionato. La situazione è stata che mi ricordo che ha battuto il fallo Terme. E siamo al 29esimo. Mi sembra. Che ha lanciato Fonseca. Parte un invito in area per Fonseca. Fonseca appoggiato dietro. Torre per Totti, sinistro in corsa e... Io calcio la muro sinistro, ho fatto gol. Esattamente. Ci aveva raccontato Roberto Re, che Francesco adesso... si ricorda tutti i gol che ha fatto. Tutti. Ma guarda che è incredibile. A me è capitato di fare un film con lui nei miei primi 30 anni. Sì. E noi quando gli chiedevo, senti, ma quel gol, io me l'ero segnato, no? E lui faceva, al minuto così, dice, ma ha passato la palla a lui, quell'altro, eccetera, eccetera. È una incredibile. Una specie di follia. E l'ha fatto qualcuno, sì. Una specie di follia, una specie di mania. Roberto, rimanendo a Roma, questa storia dello stadio, allora oggi, la notizia di oggi ve la leggo e la trovo da qualche parte: gli americani hanno accettato le nostre clausole sulla proprietà dello stadio, oggi si parte. Queste le parole del capogruppo del PD in Campidoglio, Francesco D'Ausilio, sul proprio profilo Twitter, manca dirlo. Nel giorno in cui la delibera sul nuovo stadio della Roma arriva in giunta comunale, eccetera, eccetera. Ieri erano state spese parole un po' diverse e un po' più dubbiose da parte di Pallotta, queste parole. Tutto quello che stiamo facendo ha senso, è importante per Roma. Per tutti gli stadi costruiti negli ultimi 20 anni c'è una proprietà e c'è il club, sono società diverse. È l'unico modo attraverso il quale si può finanziare un progetto del genere. Non ha alcun senso per la proprietà, per il gruppo di proprietà, di vendere lo stadio dopo 2 anni. Sarebbe assurdo. L'accordo per questo tipo di accordo per lo stadio è la cosa migliore per l'AS Roma. Su questo non c'è dubbio che sia la cosa migliore per l'AS Roma, per il calcio italiano, per tutti noi, eccetera, è indubbio. Soprattutto per Pallotta, io direi soprattutto per Pallotta. Io oggi su Twitter l'ho proposto come sindaco, perché è un genio, è sicuramente un genio, perché uno che dice non ho i soldi per costruire lo stadio, però io ve lo costruisco perché voi mi fate costruire intorno a una città e io sarò il proprietario della città e dello stadio e affitto questo stadio alla Roma a 2 milioni l'anno. E trova un sindaco e un'amministrazione comunale che accetta, e secondo me è un fenomeno. È certamente un fenomeno. Detto questo, voglio vederlo lo stadio, voglio prima vederlo, perché tu sai meglio di me quanti progetti sono stati, ma ne abbiamo parlato anche qualche tempo fa, quanti progetti sono stati presentati con 1000 lustrini, luci e cerimonie. No, ma io lo vorrei tanto uno stadio, tanto per essere chiari, ma vorrei solo uno stadio, ovviamente, come in Germania, come in Francia, come in Inghilterra, come... E dentro si mette i centri commerciali, ma l'idea di avere 9 Hilton, che come sai l'Hilton è quell'albergo, no? Che sta sopra lì la collina di Monte Mario, che è un pugno nello stomaco per tutti quelli che si avvicinano allo stadio, avercene 9, insomma mi sembra un po' esagerato. Ma è una città. Allo stato dell'arte, come vedi la realizzazione di questo progetto? Cioè, secondo te si fa o non si fa? Ma guarda, secondo me si farà, perché ho visto che il PD prima era molto diviso tra quello regionale e quello comunale. Quello comunale, avendo detto Marino di sì, alla fine si è orientato con Marino, ma poi bisognerà fare i conti con la regione. La regione dice a Zingaretti, che non è un mariniano, quindi sai, bisognerà anche fare un discorso diverso, ed è uno molto saggio. Già so che per esempio tutto quel cemento non gli va giù, ovviamente, come penso che non andrebbe giù a nessuno. Io non riesco a capire come possa essere considerato comunque lo stadio un'opera di interesse cittadino. E questo apre una strada però, perché tutti quanti adesso potranno fare lo stadio. Sì, lo vediamo. A me vengono in mente invece tutti quelli che per costruirsi una casa in quest'Italia strana devono lottare con 1000 amministrazioni comunali che poi decadono, con 1000 piani regolatori, con tante cose. Questo a me è capitato di dirlo all'assessore Caudo, che invece sosteneva che tutto andasse bene. Ho detto, ok, io non ho i soldi per costruirmi la villa, no? Dico però, allora dico, chiedo al comune, d'ora in poi chiederò al comune di darmi dei terreni ai Parioli, nei terreni ai Parioli costruisco, vendo e con quei soldi mi pago la mia villa. Perché questo è il principio. Sì. Benissimo. Sì. Dico, io aspetto, faccio subito la villa ai Parioli. Sì, l'unica cosa è che fino adesso abbiamo visto uno stadio, lasciamo perdere la vicenda del Giglio di Reggio Emilia, che è sui generis, però l'unico stadio che abbiamo visto nascere negli ultimi anni, non a caso, è lo stadio della Juventus a Torino, dove c'è stato quel famoso accordo dei 99 anni di uso del terreno del comunale, sottoscritto, se non ricordo male, all'epoca da Giraudo con Chiamparino. Sì, da Giraudo tanti anni fa. Uh-huh. Ecco, però la Juventus, per esempio, ha potuto usufruire del fatto del vantaggio di avere già uno stadio. Ha preso, ha buttato giù l'interno, ha lasciato il cappello esterno e ci ha costruito. Uh-huh. E per carità, e lo stadio è venuto molto carino. A me piace vedere le partite allo stadio della Juventus, come mi piace vederlo a Francoforte, a Düsseldorf, no? Tutti gli stadi tedeschi. Mi sta bene tutto, per carità, lo stadio sempre e comunque. Però mi chiedo, ma adesso lasciamo perdere la Roma, ma come mai in Italia tutti i soldi presi dalle TV non sono stati spesi per comprare uno stadio, per Ma perché servivano? Per andare al negozio dei giocattoli, per far contenti i tifosi al mercato e magari per far ricchi personaggi come... Per far girare i soldi. Esatto, diciamo, per far girare i soldi o far ricchi personaggi come Mendes, che è procuratore, che in un'estate ha preso 50 milioni, magari per queste ragioni, no? No? Non li prende solo lui, no? Non li prende solo lui. I soldi quando escono e vanno all'estero, uh-huh, magari non rientrano. Però, sai, questa è l'Italia. Io, in pratica, i club italiani sono stati gestiti da un pessimo padre di famiglia. Certo. Il pessimo padre di famiglia, anziché costruire una casa e poi così lasciarla ai figli, ha speso tutti i soldi in champagne e Ferrari. Non e mignotte. Donna, perché se lo farebbe bene. E mignotte, possiamo dire. Posso dirlo io. Un'ultima cosa, Roberto, un'ultima cosa. Che effetto ti fa vedere il battesimo del presidente federale Carlo Tavecchio accompagnato sul campo di gioco della nazionale dal presidente della Lazio Claudio Rotito col giubbetto della nazionale? Col giubbetto della nazionale, allora guarda, è da ieri che girano queste foto. Come sai, io non, ho seguito la nazionale per una vita, 27 anni se non sbaglio, tutti gli allenamenti. Sì. Ne ho visti altri, i federali con la tuta della nazionale. Mm-hmm. Perché lui è consigliere federale, ricordiamolo, cioè, mm-hmm, perché lui è consigliere federale. Sì. Però devo dire che in questo momento lo dico, tutto nella vita avrebbe dovuto fare meno questo. Penso perché anch'io. È sembrato un po' strafottente, come a dire, tanto qui io faccio quello che mi pare. Lo so che tanto loro fanno tutto quello che vogliono, ma questa se la poteva risparmiare. Anche se non è il primo, diciamolo, non è il primo. No, la faccia tosta ce l'hanno avuto anche altri in passato, sì, sì. Ma conflitto di interessi no. Ma io adesso non penso che lui chiederà di convocare i giocatori della Lazio, male. Quello che andrebbe ad italiano, perché gli italiani tanto non ce la sono più. Parolo magari, Parolo che andrebbe. Nazionale. Mm-hmm. Già ci sono. Io dico, ecco, facciamo qualcosa per avere più giocatori italiani. Ma voi pensate che un fissato come me domenica va a vedere una partita di allievi nazionali proprio perché è l'unica in cui ancora trovo degli italiani? Sì, io vorrei vedere gli italiani, vorrei vedere una ristrutturazione dei campionati al di sotto della Serie A. Ovviamente. Ovviamente al momento è qualcosa di estremamente profondo, non è il caso di parlarne oggi. Grazie, no, Roberto. Buon pomeriggio a tutti. Ti abbraccio, Roberto Renga, grazie. 800 24 00 24, qualche tema l'abbiamo buttato lì. Alcune nazionali su Twitter mi sono arrivate, tipo questa di Andrea: Buffon, Ranocchia, Bonucci, Chiellini, Darmian, Marchisio, De Rossi, De Sciglio e Ciarawi, destro, Florenzi. Non è molto diversa dalla mia, salvo Buffon è destro, ma destro è contemplato tra parentesi anche nella nostra formazione. Questa di Alessandro: Sirigu, Darmian, Ranocchia, Chiellini, De Sciglio, De Rossi, Verratti, Marchisio, Berardi oppure Candreva, destro El Shaarawy. Non siamo lontanissimi, ragazzi. Vi aspetto, 800 24 00 24, sta arrivando anche Pardo. Quello che mi auguro è sicuramente di dormire qualche ora in più, perché di solito prima di impegni importanti fatico a dormire, mi è già capitato questa notte. Però quando dormo poco penso tanto, a volte maturo delle idee anche buone. Questo era Conte, chissà se ha dormito questa notte in attesa del debutto con... penso di sì, dai, debutto, va bene, maglia azzurra, tanta pressione, tanta attesa, ma non ha dormito, no. CT Piantanita mi dice non ha dormito. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Benissimo, e tu? Bene, ho dormito. Anch'io, senza proprio... Ho dormito a Viterbo, anche sono stato a vedere la macchina di Santa Rosa, presente? Sì. Cos'è la macchina? No, più che altro stavo ascoltando una comunicazione perfetta. Stai parlando con cosa? Ho messo un auricolare. Forse mamma il problema mia. Si può risolvere senza cambiare telefono. Dici? Forse. Poi sono nella sede del Palatino del TG5 di Mediaset. Ah, quindi belli al mondo. Quindi non Mediaset, cioè Mediaset anche sto molto bene, voglio dire, questa sede qui è una cosa irreale, veramente. Sì, il posto dove Allora, diciamo, non... è talmente bella che non tiene così voglia di lavorare. Organizzeresti degli spritz che hanno posto straordinario al Palatino, uno dei colli di Roma, due passi dal Foro Romano, dal Colosseo, in mezzo al verde, veramente un luogo. Beh, un giorno andiamo lì e facciamo una puntata di tutti i convocati da lì, no? Tanto. Ma quando vuoi, qua. Cioè, ce l'organizziamo. Poi andiamo col signor Mimun. Uno spritz in più, uno spritz in meno, non ci fa una differenza clamorosa. Posso farti sentire il vocabolario di Antonio Conte? Va bene, fammelo sentire, va. Fattelo sentire. Una grandissima responsabilità. Abbiamo tutti una grandissima responsabilità nei confronti dell'Italia. Ci sarà grandissimo impegno da parte mia, da parte dei ragazzi. Ho trovato, ripeto, grandissima disponibilità da parte di tutti. Sono contento che c'è grandissima affluenza di pubblico nella Piazza Nicola. Se vogliamo tornare ad essere una squadra importante, e questo è molto importante, ecco. Sarebbe molto molto importante questo per noi, è molto molto importante, prima di impegni importanti, di poter fare delle cose per bene, ecco, questo è molto importante. Grandi margini di miglioramento, di allenamento in allenamento, sotto tutti i punti di vista. Tutta gente che ci deve dare tanto sotto tutti i punti di vista. C'è sempre grande empatia sotto tutti i punti di vista. L'impegno sarà massimale sotto tutti i punti di vista. Ecco, io ho avuto un'esperienza di un anno e mezzo veramente bella sotto tutti i punti di vista, vincendo anche un campionato. Grandi margini di miglioramento, di allenamento in allenamento, sotto tutti i punti di vista. Grandissimo, importante sotto tutti i punti di vista. Abbiamo capito. È un grandissimo allenatore sotto tutti i punti di vista. Sotto tutti i punti di vista, un allenatore importante, grandissimo allenatore, importante sotto tutti i punti di vista. Di partita in partita. Guarda, importante lo dicono tutti, ma sinceramente importante è diventata questa discussione linguistica. Importante, importante è diventato, secondo me, uno degli aggettivi degli ultimi anni. Più importanti, uno degli aggettivi più importanti, nel senso che qualsiasi cosa diventa importante. Importante, credo. Naturalmente. Cioè, importante è sostituito anche... prestigioso, ha sostituito... Sì. Ha sostituito anche Borini, straordinario, sì, straordinario. Ecco, anche Borini, sto leggendo, aveva chiesto un ingaggio importante, sto leggendo la storia di Borini, poi ti chiedono i giocatori italiani perché non giocano, perché non facciamo giocare gli italiani, facciamo giocare gli italiani. Allora, Fabio Borini, anni 23, la storia la conoscete, quest'anno spolvererà, credo, la panchina o la tribuna di Anfield Road con la maglia del Liverpool. Allora, ha rifiutato il trasferimento a QPR, aveva già detto di no al Sunderland ad inizio estate, era stato raggiunto un accordo fra i due club per il cartellino, 10 milioni di sterline, mica paglia, più altre 3 da pagare successivamente. Ebbene, aveva chiesto un ingaggio triplo, 3 volte superiore rispetto a quello che becca attualmente dal Liverpool. Il QPR era addirittura disposto a raddoppiarglielo e avrebbe inserito una clausola di rescissione per l'anno prossimo, ma lui ha detto no, rimango qui perché il doppio non mi basta, e quindi vabbè, farà panchina al Liverpool. Vabbè, del resto che te devo dire, c'erano avuto i suoi motivi. Io il doppio non è male, ecco. No, ma poi se sei un giocatore e vuoi andare a giocare, Pierluigi, poi adesso i soldi sono ok, sono professionisti e sui soldi non si sputa, e fanno benissimo quelli che fanno anche ragionamenti di mero interesse, però devi fare anche ragionamenti. Hai 23 anni, devi andare a giocare da qualche parte, no? Se non sarà Liverpool, sarà QPR o sarà Sunderland, no? Assolutamente. Questo no, è il discorso. Sono d'accordo, comunque mi sembra che l'ingaggio che ti hanno proposto fosse piuttosto importante sotto tutti i punti di vista, e ecco. Ho fatto conto, capito? Ho ridetto punti di vista, importante? Importante, naturalmente. Senti, mi hanno detto che hai detto di Buffon, che guarda che c'ho le spie, eh. Allora, no, allora sentiamo, no, aspetta, vai. Piantanida è tutta colpa sua, ha fatto la nazionale, lui è il CT, no? La nazionale di tutti i convocati, che è questa. Vai. Sirigu in porta, Darmian e De Sciglio ai lati, Chiellini, sì, Ranocchia in mezzo, perché di migliori in questo momento non se ne vedono. Ah, quindi a 4 giochiamo? Sì, io direi di sì. Vuoi giocare a 4? Bene. Giochiamo a 4. Sì. Centrocampo, Marchisio tra parentesi Montolivo. Io dico Marchisio, lui Montolivo. Abbiamo raggiunto questo compromesso importante. Verratti, perno centrale. De Rossi, unico trade union tra quello che è stato e quello che verrà. Davanti, Balotelli destro, vedi tu. Uno tra parentesi e metti tra parentesi chi vuoi. A sinistra Shaarawy, a destra Florenzi. Io Buffon, per quanto riguarda Buffon e Pirlo, insomma, d'altra parte per Pirlo era già negli accordi premondiali. Buffon ha dato tantissimo, secondo me in prospettiva futura, perché non dire andiamo con Sirigu o con Scuffet o con Perin, che mi sembra meno pronto, o con questi. Io sarei di questa idea. Sì, però secondo me Buffon fino al 2016 regge pazzo, eh. Noi non è che possiamo, si vive per il presente, come canta Baglioni, la vita adesso nel vecchio albergo. Lo so, ma perché bisogna arrivare a consunzione, Pierluigi? Come mi ricordo giustamente ieri sera, nella cerimonia a Latere di Germania e Argentina, è stato l'addio bellissimo di Philipp Lahm, anni 32, che è ancora un signor giocatore di Mertesacker, di Miroslav Klose alla nazionale. Cioè, perché arrivare a mondiale, hanno vinto il mondiale. Sì, ma perché arrivare a consunzione? Hanno vinto il mondiale, ma ti dirò di più, se avessero vinto anche l'europeo nel 2012, magari qualcuno della vecchia guardia avrebbe mollato. Io giudico dai risultati, no, perché da ci sta il ragionamento della costruzione in prospettiva. A me tu piaci molto quando fai quel discorso su giovani e vecchi, che poi alla fine quello che conta è quello che ti danno in campo. Però è Buffon, certo, ancora da ampie garanzie. Sì. Detto questo, è giusto, secondo me, è giusto, e probabilmente la partita di stasera neanche in qualche modo già un segnale, costruire il dopo Buffon, perché è chiaro che quando tutti inevitabilmente ti lascerai alle spalle un monumento simile, devi dare ai portieri che verranno sicurezza. Quindi io penso che il fatto che giochi Sirigu stasera vada proprio in questa direzione, e secondo me si ripeterà in questi anni quando ci sarà la possibilità di giocare a lui, perché è il dopo Buffon. Però ecco, rinunciare a prescindere a un portiere che ancora mi sembra forte, integro e di grande esperienza, sarei tutto qui. Quindi tu metti Buffon, Morale? Io metto Buffon fino al 2016, metto Buffon perché mi sembra ancora un po' superiore, insomma. Poi però appunto non è che mi scandalizza vedere Sirigu stasera, anzi Sirigu la partita che ha fatto contro l'Inghilterra l'ha fatta molto bene al mondiale. Sì, sì. E lì guarda, io però ne faccio, io, ovviamente possiamo essere una volta in disaccordo su, perché anche in famiglia, no? Si può litigare, si può scazzare qualche volta, giusto così, possiamo anche essere in disaccordo. Io ne faccio anche un discorso di spogliatoio. Secondo me è giusto voltare pagina rispetto ad una vecchia guardia che è stata al comando anche dello spogliatoio per molti anni. Poi, per carità, sì, guarda, allora lo sfogo di Buffon alla fine di Italia Uruguay sicuramente è stato uno sfogo che col senno di poi, a distanza di mesi, forse si poteva anche evitare, no? Sì. Ci sono delle volte magari delle cose che può convenire non dire, però io penso che fra persone intelligenti in quel momento, cioè, ci sia anche la forza di poter chiarire quello che è successo lì chiaramente c'era un disagio, qualcosa più di qualcosa non ha funzionato in Brasile. Adesso si riparte, sono tutti adulti, vaccinati. Non penso che adesso, tanto per capirci, Buffon non potrà mai vedere Balotelli in squadra o viceversa, tanto per citare due nomi a caso, uno della vecchia e uno della nuova guardia. Io penso che le persone intelligenti trovino un accordo, e poi da questo punto di vista io mi fido di Conte, nel senso, io sono sicuro che Conte non è uno che sceglie in funzione alle lobby, diciamo, ai gruppetti di giocatori, non si lascia condizionare dalle simpatie dai gruppi di giocatori. Sono sicuro che è uno che farà, che sceglierà, come dice lui, di testa sua, sotto tutti i punti di vista, i giocatori importanti, per i grandissimi, a parte le battute. Io mi sento rappresentato da questo punto di vista, esattamente come quando è stato fatto il discorso sulla Puma. Dicevo che secondo me non è Conte un allenatore condizionabile da questo punto di vista, nella maniera più assoluta. Io sono sicuro che lui, dal punto di vista tecnico, penso che Conte sia molto bravo, dal punto di vista caratteriale penso che sia ancora più bravo. cioè, probabilmente esistono gli allenatori migliori di Conte, sicuramente ne esistono, ed è per questo che, dal punto di vista, caratteriale, io Balotelli con lui non ce lo vedo. Magari ne parliamo subito dopo il traffico, che so che appassiona tutti noi più di qualunque altra cosa. Ci sono anche molti ascoltatori che chiedono la linea 800 24 00 24, quindi io e te, Pier, ci siamo arenati sul portiere, non ne siamo usciti, ma poi voglio sentire anche gli altri 10 dal tuo punto di vista. Dimmi. Vogliamo ricordare che da ieri iniziato questo gioco, vota la tua coda preferita, per cui ascoltate il traffico e poi gli ascoltatori ci diranno quale delle code del traffico è la loro preferita. E vale anche coda vorresti essere? Tra poco, traffico. Tutti convocati. Faircam, il tuo partner per soluzioni logistiche integrate. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Strade in diretta. Di nuovo buongiorno, e sì, di code ce ne sono, quindi sulla tangenziale ovest di Milano 5 km per un incidente tra Settimo Milanese e la vecchia Vigevanese verso l'Autosole, sulla A21 Torino-Brescia 6 km per un incidente tra Castel San Giovanni e Piacenza ovest verso Brescia, sull'Autosole nel tratto appenninico 2 km di coda tra Pian del Voglio e Rioveggio verso Bologna, sulla A23 Palmanova Tarvisio le code sono tra Gemona e Pontebba per lavori verso Tarvisio. Sul nodo autostradale intorno a Napoli restano rallentamenti sull'Autosole tra la A3 e il centro direzionale verso Roma per il ribaltamento di un camion e le successive operazioni di pulizia. Si rallenta anche sulla 3 verso Salerno tra Napoli centro e l'Autosole. Per ora è tutto, a più tardi. Tutti convocati. Pian del Voglio, no? A parte il fatto che io voglio i ragazzi del traffico ospiti Tarvisio, a tutti i convocati. Tarvisio. Tarvisio. Oggi Tarvisio. Ieri... Io voto Tarvisio. Ma ieri c'ero andato io da quelle parti lì, oggi ci vai te. Vuoi andare in montagna? Ma ieri c'era la tangenziale di Napoli. Vabbè. No, io Pian del Voglio. Pian del Voglio, perché, no, bello, perché poi bello Pian del Voglio. Non male, poi puoi uscire e trovare anche qualcosa di interessante dove. Anche se quella vecchia, la vecchia Vigevanese, comunque c'ha il suo fascino, eh. La vecchia Vigevanese mollami, no, ma la vecchia Vigevanese. Disastro, sai, pieno di zanzare, no? Lascia stare. No, io comunque oggi Pian del Voglio, però resta il fatto che io vorrei, ragazzi del traffico, ospiti tutti convocati, perché mi piacerebbe parlare con loro di code e di calcio. Perfetto. Comunque adesso chi chiama, i nostri amici convocati. Guarda, c'è già Luciano che... dalla provincia di Lucca. Vai Luciano, che coda sono io? Eccomi qua. Buonasera. Che coda vuoi? In che coda vorresti? Io vado per un comilaccio. Pian del Voglio, perché è un classico, perché come hai detto si esce, si fa la futa o si fa la bolognese, paesaggi belli, servizio, è una tristezza infinita. Vedi che ci capiamo, ci capiamo subito. Grande libidine di Pian del Voglio. Ronco Pilato, Pian del Voglio, Sasso Marconi è un classico. Un grande classico dell'erotismo, sì. Allora, volevo dire, per quanto riguarda intanto dirigenti, io non sono né per Tavè e per Lotito, e poi ce ne sono anche altri che sono uno a Torino, uno a Genova, non faccio nomi, che quindi sono personaggi poca credibilità e poca trasparenza, quindi Tavecchio anche per cultura non era, e per età non era rappresentarsi. Io sono più vecchio di Tavecchio, però quello di Torino chi è? Juventus, quell'altro, io sono un tifoso di Torino. Cairo, non piacciono personaggi che non sono stati sempre trasparenti. Ma perché? Lasciamo perdere. Facciamo gli sportivi. Per i portieri sono d'accordo con Buffon e Pirlo, che purtroppo devono passare o il piede, come si vuole, uno la mano, uno il piede. E quindi va bene essere come stasera, e sono d'accordo di tenere d'occhio il portiere Udinese, giovanissimo, facciamolo maturare sperando che si confermi. Sì. Poi in difesa non abbiamo in questo momento grandi scelte, quindi Darmian e De Sciglio mi piacciono più che Chiellini e Ranocchia, però sì, i centrali sono quelli. E a centrocampo va benissimo, io vedo bene logicamente De Rossi e Verratti, sì, e poi mi va bene più Candreva che Florenzi, però Florenzi è un signor giocatore. Poi ricordiamoci che c'è anche un certo Cerci, e di là va benissimo, mi piace Marchisio, e eventualmente diciamo, e Saravi quando starà bene, e ora c'è Zaza. Zaza io lo conosco bene perché l'ho visto giovanissimo a Viareggio, ricordati? Sì. Che ha esordito a Viareggio. Questo il killer, cioè, questo è veramente un killer, nel senso che è uno che si fa sentire fisicamente. Diciamo, è un Rooney più cattivo ancora. Beh, Rooney, per però, da lì a Rooney mi sembra che la distanza sia ancora un po' lunghina, No, no, per carità, è una grande, grande stima per Zaza. È un Rooney un po' più bello. Io ho capito ovviamente la metafora, cioè la considero metafora. Ha quelle caratteristiche lì, poi chiaramente Rooney è una carriera diversa. No, sono d'accordo. Tra l'altro sul discorso di Candreva, che mi piace molto, potresti anche giocare 4-3-3 con due esterni, potresti giocare anche con Candreva e Florenzi, con una punta centrale con due esterni che vanno. Oppure scegli, evidentemente, per avere il più offensivo, di giocare soltanto con uno dei due, cioè o Candreva o Florenzi. In mezzo chi metti? In mezzo ai due? In mezzo ai due metto forse destro. Ah. Destro Immobile, sta una punta centrale abbastanza di tipo tradizionale. E a centrocampo Verratti, De Rossi, Marchisio. Berratti ti dà la geometria e De Rossi e Marchisio ti danno forza fisica e inserimenti, il senso dell'inserimento, più Marchisio che De Rossi, se giochi 4-3-3. Se invece vuoi giocare 4-2-3-1, allora a quel punto tu puoi fare tranquillamente De Rossi, Verratti davanti alla difesa, De Rossi protegge per due, sì. E Marchisio magari con quella situazione lì rischia qualcosa, perché appunto scegli un trequartista un po' più classico, però so, con 4-3-3 farei Marchisio, Verratti, De Rossi sicuramente. Quindi destro al centro dell'attacco è uno dei miei due nomi. L'altro è Balotelli, di cui abbiamo parlato un sacco. Secondo me caratterialmente è veramente uno dei giocatori più distanti possibili dalla mentalità di Antonio Conte, se non altro perché insomma è un pigro, è uno che non... un grande uomo che è un calciatore medio, è un uomo così, poi non è che Balotelli sia un uomo così, che poi delle volte, sai, la professionalità, noi possiamo valutare la professionalità di un giocatore, possiamo valutare alcuni comportamenti, ma poi insomma bisogna sempre ricordare che qui parliamo di una parte professionale, poi l'anima delle persone è, per me, a parte che è ingiudicabile da fuori, no? Sì. Nessuno di noi può fare la valutazione se, che ne so, Inzaghi, che è stato un grandissimo professionista, no? Una persona assolutamente perfetta nei suoi comportamenti professionali, però io non so se umanamente nella valutazione dell'uomo per questo motivo sia migliore di uno scapestrato un po' alla Balotelli. Questo ragionamento bisogna lasciarlo aperto, stiamo parlando di calcio, certamente, di calcio e di disciplina calcistica, perché poi, sì, e questo è importante sotto tutti i punti di vista, come sai. No, certo, però voglio dire, bisogna stare attenti a questa cosa qui, perché poi quando uno sente la metafora di Conte, no? Dice un grande uomo è un giocatore medio contro un uomo così, è dal punto di vista calcistico, è dal punto di vista di quello che uno in campo ti dà e della disciplina, e giustamente merita un premio chi si comporta bene e merita invece dei castigli. No, ma io ne sto facendo un discorso, sai, ma io sto facendo un discorso calcistico, rapporto tra Balotelli e Conte, non da altri punti di vista, esclusivamente calcistico. Secondo me sono due professionisti che ci azzeccano poco uno con l'altro per caratteristiche. L'intrigo per tutti gli allenatori bravi è quello di io ti cambierò, no? Come ma sì, io ti cambierò, io ti cambierò, io di ti ridurre alla fedeltà, anche se cambiarti quando ti vedo una volta ogni tanto è un po' duretta. C'è chi predilige la coda a Rapallo Chiavari e non ha torto. Secondo San non c'è. Non c'era, ma magari si forma, è tempo di un'ora, si forma. Allora, poi facciamo la coda dei sogni, ma adesso dobbiamo essere... No, ma sai, secondo Sandro la migliore è San Vittore Caianello, mentre stravince Luigi, per il quale la coda migliore è quella alla Vaccinara. Allora, discorso sugli stadi lo facciamo tra poco. Ne approfitto che c'è Roberto da Udine, perché è un ascoltatore, giustamente prima via SMS ha notato come parlavamo dello stadio della Roma e dicevo l'unico attualmente esistente in Italia è quello della Juventus, quello della Roma, voglio vederlo, voglio vedere come sarà. C'è anche Udine che sta nascendo e ripeto, secondo me l'Udinese è dal mio punto di vista il modello assoluto di gestione della cosa calcio in Italia. Però compresa scelto, la politica straniera. Non hai scelto la coda di Tarvisio. No. Non hai scelto la coda di Tarvisio. Ma però vabbè, la prossima volta la prendo. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Dica. Complimenti al signor Genta e mi professo un tifoso accesissimo del signor Pardo, che mi diverte moltissimo, anche perché sono sempre in disaccordo con lui. Perfetto, allora, meraviglioso. Volevo dirvi che per me il signor Pardo, tra gli altri, non si è accorto, forse solo io, da 5-6 anni che Buffon non è più un portiere. Uno che ha giocato a calcio. Sì, uno non ha giocato a calcio fino a 45 anni come me, cioè pochi anni fa, e anche da portiere, lo saprebbe che quando ha avuto dei problemi alla schiena non ha più la capacità istintiva di lacciarsi come un gatto, proprio istintiva. Difatti abbiamo visto i suoi movimenti ultimi anche in Brasile, proprio attendere, no? Aspettare quella frazione di secondo prima di lanciarsi. Non è più un portiere sicuro di sé, ma da tanto tempo, questa l'esperienza è notevole, è stato un grande portiere. Oggi Sirico dovrebbe giocare. Sì, io ne faccio soprattutto un discorso in prospettiva, che Buffon sia attualmente ancora un grande portiere, beh, io credo che invece lo sia. Aspetta, è difficile, dai. E agghiacciante è quello che dicono. E agghiacciante che è una capra respiratoria. Sappiamo che è un momento difficile un po' per tutto il paese. E vorremmo, ecco, anche tramite la nazionale, riuscire ad essere d'esempio, sapendo che in campo andiamo noi 22, ma sapendo che dietro c'è un intero paese che ci vuole. Che c'è qualcosa sotto e agghiacciante. Ci sarà grandissimo impegno da parte mia, da parte dei ragazzi, daremo veramente il 110%. Cosa mi deluderebbe se io per primo non avessi questo impegno insieme ai ragazzi? Ecco, questo mi deluderebbe molto. Però conoscendomi e conoscendo i ragazzi, l'impegno sarà massimale sotto tutti i punti di vista, ecco. Quindi quando parliamo di maglietta sudata al 95esimo, state certi che i calciatori usciranno con la maglietta sudata al 95esimo. E agghiacciante che un conte tecnico tattico. Sicuramente mi ha fatto un bellissimo effetto, perché ritornare in questo stadio, in questi spogliatoi, dove comunque abbiamo fatto io ho avuto un'esperienza di un anno e mezzo veramente bella sotto tutti i punti di vista, vincendo anche un campionato in maniera straordinaria. È stata la mia prima vittoria da tecnico, quindi la conservo gelosamente nel cuore. Ho lasciato degli amici, quindi ci torno sempre molto molto volentieri, come torno sempre molto volentieri nella mia regione, nella Puglia, quando vado a Lecce, nel Salento. Quindi ribadisco, orgoglioso di essere il primo CT meridionale. C'era una partita col Catania. Senza che tutti sospettino che c'è. Allora, mi manda addirittura una mail Cesare da Torino per dirci, a me a Pardo, la coda migliore è quella per imbarcarsi sul traghetto per la Sardegna, secondo altri la coda sulla tangenziale di Napoli è la più panoramica del mondo, eccetera eccetera. Pasquale, provincia di Foggia, buongiorno. Pasquale dalla provincia di Foggia, buongiorno. Genta, pronto? Pronto? Genta, sono qui con Terese. Qual è la tua coda preferita? Oggi stiamo giocando da adesso. Perché Cruciani, devi sapere, caro Terese, che Cruciani odia il traffico, inteso come interruzione della zanzara. Traffico! No? Traffico! Che rapporto avevi con traffico? Molto buono, perché poi ne approfittavo per la pulizia personale, quei momenti che ti servono. Che cosa brutta è? Confessavo. Cioè che facevi? No, al traffico dura pochissimo, no, però. Corri, fai una pisciata lampo e torni. Ma come siamo in diretta, Radio 24, non si può dire pisciata. Ma non lo so, è convinto tu sei abituato ai toni della zanzara. È vero, la zanzara. Comunque no, qual è la tua coda preferita sulla tua strada, quale tratto autostradale? Io mi incastro sempre al casello per Fregene. Per Fregene. Però questa Roma Nord, Roma Nord, intelligenza. Delle passe riescono sempre a fregare gli altri. È una bella sensazione inconfessabile. Tu vai e tutti gli altri. A parte questo marchettore per il telefono, però posso dire veramente, io sono basito dalla Royal. No, neanche io Royal, però potremmo diventare testimone. Ah, testimone. Anzi, facciamo un appello alla società, chi strade. Ti sento male, no, è utile. Pierluigi. Sì. Puoi chiedere a Luca Telese se stasera guarderà la nazionale? Prego. Non muoio dalla voglia, perché no. Sembra ancora un po' prematuro. No. Ah. No, non la guarda. Che fai stasera? Stasera vai, cerchi la coda. Volete la verità? Dragon Train 2 con più. Non ho sentito, che fa? Dragon Trainer 2 con mio figlio. Ah, grande, va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene. Non lo sappiamo. Abbonata la rinuncia alla nazionale, insomma. Zaza farà Fracelli, no? Sì, Telese è romanista di qualità del Cagliari, di Demaniano. No, quindi per Cagliaritano si fa di Ragazzi, non vi sento, è bellissimo, sarebbe bellissimo ascoltarvi, ma come sappiamo il cellulare di Pardo è quello che è. Ma non si sente, Pierluì. Purtroppo però, sarebbe stato bellissimo, abbiamo solo intuito, abbiamo solo fantasticato su quanto avete. No, in parte abbiamo capito cosa fa Terese, che non guarda la nazionale, che va a vedere Dragon Trainer e che gli piace la coda nei pressi di Fregene. No, invece non era casuale la domanda perché Piantanina prima mi faceva notare: oh, io stasera la nazionale la guardo volentieri, e credo che come molti italiani, per curiosità, perché c'è Conte, perché ha riportato questo spirito nuovo, perché ha carisma o carisma, come dice Mughini, carisma o carisma? Il Milan c'ha tutto, la tradizione, il carisma, ma purtroppo io ho fatto il liceo classico, è stata la mia rovina. Avessi imparato come fare dei bordelli a Shanghai, allora sì che avrei avuto una grande vita. Carisma, allora il carisma o carisma? Ditelo alla Mughini o alla normale, come lo diciamo tutti, carisma. No, sai la mia sensazione? Che Conte, la nazionale di Conte questa sera la guarderanno in molti, se non altro per curiosità, e credo anche che i giocatori abbiano voglia di andare a giocare per la nazionale, per questo allenatore, anche amichevoli di novembre, anche queste partite di qualificazioni improbabili. Mi sembra una sorta di refrain dell'effetto Lippi. Hai anche tu questa sensazione? Ma assolutamente, assolutamente. Io penso che sia proprio così. Io credo che i calciatori oggi siano molto molto sensibili alla forza mediatica di un personaggio, a quello che ha vinto. Conte è un allenatore vincente in questo momento, perlomeno in Italia, ma forse all'estero no, anche perché se fosse stato particolarmente vincente all'estero forse adesso sarebbe sulla panchina del Manchester United. Ma in Italia noi lo percepiamo giustamente, meritatamente, come un grande allenatore vincente di grande carisma o carisma, poi facciamo scegliere a Mughini, e quindi assolutamente tutto quello che hai detto è vero. Poi lo ripetiamo sempre, non è che con un allenatore un pochino meno carismatico si giochi male apposta, si perde apposta le partite o non ci si alleni, è che il calcio a questi livelli è una sfida fra eccellenze, quindi ti basta calare un filo l'intensità e già il risultato peggiora. Sì. Le famose motivazioni, qui secondo me ci sono tutte. Qui ci sono tutte, hai ragione. Massimo Modena, buongiorno. Sì, buongiorno, saluto tutti, diciamo così. Sì. Allora, a me piacerebbe essere, se c'è traffico di fianco a chi lo legge, insomma, diciamo. Traffico, scusi? Mi piacerebbe essere di fianco a chi lo legge, se c'è traffico anche da quelle parti lì, magari mi piacerebbe essere di fianco. Comunque, vabbè, a parte la battuta, io sono d'accordo con Pardo per quanto riguarda Buffone, in disaccordo con il signore che ha chiamato prima, sì, quello che ha detto, perché almeno io l'ho visto molto bene, anche gli ultimi, mi sembra, 5 minuti finali sulla parata su Maxi Lopez, che era un tiro chiaramente non irresistibile, però ho visto che cadendo a quei mezzi tiri, che insomma non si sa dove arrivano, l'ho visto molto reattivo, ecco, diciamo. Sì, ma Buffon, insomma, cioè, non possiamo discutere la qualità del portiere. Poi è uno dei pochi portieri al mondo che forse fanno ancora paura agli attaccanti, anche questo. No? Sì, sì, ma io, guarda, sono d'accordo. Sono d'accordo con l'ascoltatore che ha detto che è d'accordo con me, quindi. Ma certo, no, ci mancherebbe. No, però voglio dirti, ripeto, è giusto preparare il dopo Buffon. È giusto, e questo vale a ogni livello. È come il discorso di Totti alla Roma: è giusto lavorare per il dopo Totti. È giusto che Totti, che oggi festeggia i 20 anni dal primo gol, non sia un totem che deve giocare 90 minuti tutte le partite. Un po' perché, comunque, l'età, anche se non sembra, avanza anche per lui. E un po' perché bisogna costruirsi alternative per il futuro, per il certo, dopo. Certo. Però per me, esattamente come Totti, anche Buffon regge benissimo. Poi probabilmente avrà avuto momenti migliori nella sua carriera, pure Totti, forse a 25 anni avrà avuto delle stagioni nelle quali segnava di più, ma comunque sia mi sembra che ci sono modi e modi di invecchiare, e questi sono modi eccezionali di invecchiare. Certamente, certamente. Senti, volevo proporti un'altra suggestione, quella dei divieti. Se non ti piacciono le orecchiette, me lo dicevi che ce le dava i poveri invece di gettare dentro l'immondizia. Che cosa hai fatto? Ma sì, ma no, mi sono scivolate, non ho mica fatto apposta. Scusami, mi dispiace, ti chiedo scusa. Ma io vado. Ma no, vai, resta, veramente, rimani. No, questa volta no. Marica, grazie della cena. No, davvero, che aspetta, rimani, dai. Ma mi fa male troppo l'orgoglio. Perché se Conte ha detto mai ritiro aperto, voglio i giocatori concentrati, non alberghi, non aperti alle famiglie, se mai ne pigliamo un altro, si vedono ogni tanto, ma quando devono giocare giocano, vengono qui e lavorano. Van Gaal pretende la consegna dei telefonini 24 ore prima della partita. Hiddink per la trasferta della nazionale olandese in Puglia, tra l'altro debutta anche lui, o ritorna anche lui, ha vietato le orecchiette. Ma si può, ma si può, ma si può vietare le orecchiette. Guarda, la mia stima per Hiddink è totale, e tra l'altro ne abbiamo parlato quest'estate quando scherziamo con il serio tecnico. Questa secondo me è la sfida fra i due migliori. Hiddink l'ha preso l'Olanda, in realtà l'aveva già preso Pirani Mondiale, quindi non potevamo prenderlo noi, ma secondo me sarebbe stata una grande soluzione, una grande scelta. Perché le orecchiette, però? Maestro Gus, dopo gli mando un messaggio, magari domani, perché insomma sì, probabilmente. Sì, come fa a vietare le orecchiette? Ma che hanno fatto sti ragazzi? Che hanno fatto sti ragazzi? Ma che sei matto? Carboidrato. Tra l'altro l'orecchietta mi risulta anche molto digeribile, no? Perché pasta, non è tipo acqua sparina. No, ma poi l'orecchietta. Ma no, ma poi dopo, magari dopo che hai giocato, che li fai andare a casa? Li fai andare a casa a stomaco vuoto? Ma poi voglio dire, al limite la scima di rapa, poi. Ma non lo so, guarda, mi sembra troppo. Siamo sicuri? È surreale, siamo sicuri. Sì, purtroppo siamo sicuri. Ha vietato l'orecchietta per la trasferta dell'Olanda a Bari, il che è inconcepibile. Gerardo Salerno, buongiorno. Buongiorno, siete dei grandissimi. Oh, Ascolti, io volevo dire il fatto di Balotelli. Voi non avete considerato un fatto che 4 volte su 10 Balotelli si fa cacciare fuori, e questo è un fatto di immaturità e di poco rispetto verso i compagni, ecco. A prescindere dal fatto che sia simpatico, sia antipatico, il suo carattere comporta anche questo. Sappiamo bene, sì, no, ma sappiamo bene come questo sia il suo peggior limite da giocatore, probabilmente. Cioè, quindi l'allenatore può darsi pure che pensi a una cosa del genere, ecco, oltre al carattere, all'antipatia, eccetera, eccetera. Poi volevo dire un'altra cosa. Io sono un camionista. Sì. Quando c'è la coda sul raccordo anulare, dall'alto della mia cabina vedo delle cose spettacolari. Vedi. Raccordo anulare di Roma. raccordo anulare di Roma. Va bene. Top, guardi. Sì, mi viene voglia di andarci quasi subito, direi. Di infilarmi una bella coda. Dimmi, Piero. Poi ti saluto. Aprendo un filone letterario, perché questa cosa della coda è chiaro che la coda è una grandissima rottura di scatole, eccetera. Però per dirti, l'altra notte ero in macchina con Massimo Mauro tornando da Verona ed era mezzanotte, quindi non è che fosse. Però abbiamo fatto una chiacchierata bellissima. Che forse senza la coda non avremmo fatto. E quindi, insomma, continuate a mandarci le vostre code preferite, le migliori verranno premiate con una maglietta. Tutti con voi. Guarda, c'è un ascoltatore, si chiama Manuel Serangeli, ci ha mandato una foto della coda di Pian del Voglio dove piove. A proposito, Pierluigi, ti saluto, ci sentiamo domani, però aprirei anche una sottoscrizione per ripristinare l'appuntamento con la viabilità alle 15:15, che attualmente non c'è. Sei d'accordo? È un fatto che noi siamo il primo programma che contro i propri interessi vuole le interruzioni. Non staremo esagerando, cioè, probabilmente sì. Comunque adesso io invece vi mando la foto da dove ho fatto tutti i focati oggi per la Twitter. Non è un brutto posto nemmeno questo. Interazione totale. Ciao Pierluigi, a domani. Ciao. Giorgio, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Due cose velocissime. La prima, volevo fare i complimenti a Fabio Auro per la vittoria di ieri alla Vuelta. Fa benissimo e dopo ne parliamo anche. Seconda cosa, dato che oggi si parlava degli stadi nuovi, io sono un tifoso dell'Inter. Mi va benissimo lo stadio nuovo per far tornare le famiglie, per far tornare i bambini allo stadio, però non so se ha presente il calendario dei posticipi dell'Inter da qua fino a Natale. Le confesso che non ce l'ho presente, perché? Okay, allora, si gioca la prima a San Siro il pomeriggio, poi c'è l'infrasettimanale, quindi alla sera, la seconda il pomeriggio e poi tutte di domenica sera. Quindi anche con lo stadio nuovo ho i miei dubbi che le famiglie possano... Giorgio, però direi che è fatale considerata la partecipazione dell'Inter all'Europa League. Direi che è una disfunzione dei calendari fisiologici in questo caso, perché l'Europa League, lei sa benissimo, si gioca al giovedì qui, là, su, giù per l'Europa, quindi è qualcosa di, direi, di quasi inevitabile, no? No? Sì, però anche gli altri anni non è che cambiava molto la storia, quindi, cioè, quello che dico io con un bambino piccolo, specialmente se va incontro all'inverno, andare a San Siro, no, ma neanche in uno stadio nuovo, neanche in uno stadio nuovo. Io sono i posticipi inverni, a parte il fatto che il posticipo della domenica sera a me non piace, mi riempie di angoscia, perché abbiamo cominciato a vedere il calcio sabato pomeriggio, belli carichi per la giornata che viene, e poi il sabato sera e poi la domenica all'ora di pranzo, e poi l'orario canonico che si è ormai svuotato, e questo per me è un grande problema, perché ci sono delle domeniche pomeriggio in cui veramente non c'è nulla, e poi la domenica sera di nuovo eccoci lì a vedere il posticipo. Quindi io capisco le esigenze televisive, mi sono ben chiari i motivi per cui esiste il posticipo domenicale, però è qualcosa che a me non piace. Figuriamoci i posticipi a dicembre, gennaio, febbraio, in quei periodi lì certamente non è possibile spesso vedere partite in condizioni accettabili, però ci si può far nulla, e quando c'è soprattutto gli impegni internazionali di mezzo, come nel caso dell'Inter con l'Europa League, ripeto, mi sembra qualcosa di inevitabile. Quanto ad Aru ne parliamo dopo, abbiamo già un appuntamento. Se volete parliamo anche della Pennetta che ha perso nella notte contro Venus Williams, ha giocato con grande orgoglio Flavia Pennetta, ha perso il primo set 6-3, nel secondo c'è stato un bellissimo inizio di secondo set 2-2 in una terrificante battaglia di ace, uno sull'altro da tutte e due le parti, ogni punto combattuto, ogni game molto lungo. Sul 2-2 Venere ha piazzato un parziale di 14-1 che poi è diventato 20-5 e ha chiuso d'imperio senza più sbagliare nulla, e giocando come Tyson picchiava sul ring, ha vinto 6-2 il secondo set. Questo è ciò che è successo. Felice da Trani, buongiorno. Buongiorno. Io volevo intervenire sulle orecchiette, perché come pugliese... Come si fa? Come dice Checco, è inconcepito. Inconcepito. È inconcepito, è assolutamente inconcepito vietare l'orecchietta ai ragazzi olandesi. È come direbbe Conte, è agghiacciante. Assolutamente. Senta, quindi io gli consiglio dopo la partita di andare a mangiare, come si dice da noi, non le orecchiette, ma lo stracionat, con il ragù e la braciola. E quindi poi aggiriamo, avrà tutta la notte poi per digerire. Aggiriamo il problema orecchietta variando qualcosa sul menù. Certo. Però le orecchiette bisogna mangiare. Poi se le vuol mangiare più leggere, non è periodo. No, ma poi lei si immagini, uno come Wijnaldum o uno come Martin Cindy. Quando mai ricapitano da quelle parti? Cioè oggi arrivano lì Sillesen, il portiere, quando gli ricapita di giocare da quelle parti, poter mangiare l'orecchietta, no? Cioè, forse ha ragione, far assaggiare altre cose oltre ha ragione Stefano che scrive un SMS così: ha vietato le orecchiette Hiddink perché se le vuole mangiare tutte lui. Questo può essere. Bisogna vedere se le vieta anche a se stesso, perché questo non è chiaro. Io sono, faccio una premessa, io sono juventino, sì, e c'è stato un bello striscione a Bari, forse lui si è preoccupato di questo, sì, che uno striscione diceva: dopo il Wurstel bavarese, la braciola barese, sì, e quindi non vorrei che lui si sia preoccupato che potesse perdere, quindi dice vietiamole, così non si sa mai. Non lo so, comunque verrà interpellato, interrogato da Pardo via SMS e poi conosceremo la risposta. Ovviamente non era Venus Williams che ha battuto, un ascoltatore bravissimo mi corregge subito, non era Venus Williams che ha battuto la pennetta nella notte, ma era Serenona Williams. Nicola, provincia di La Spezia, buongiorno. Pronto? Eccomi. Sì, non lo Spezia, Latina, va bene pure. Latina, va bene. Sì, volevo fare i complimenti ad Antonio Conte perché mi sembra l'iter giusto quello che lui sta facendo. Si è accusato, tra virgolette accusato, il fatto che lui non abbia esperienza internazionale. Bene, questo è partito da serie minori e si è fatto l'esperienza. È arrivato in una grande squadra, ha vinto. Che cosa ci manca? Ci manca l'esperienza internazionale. E chi meglio di una nazionale per fare questa esperienza qui? Proprio perfetto, secondo me dopo fra due anni, se questo dovesse andare bene, vincere qualcosa con l'Italia, sono d'accordo, come ha detto prima, allora si aprono, possono aprirsi le porte di quello che probabilmente Conte già sogna, cioè un altro grande club europeo. Lei ha ragione, concordo. In questo momento Antonio Conte non è probabilmente pronto, ad esempio, per una panchina come quella dello United, per una panchina come quella del Real Madrid. Tutti speriamo possa esserlo dopo questa esperienza con la nazionale, perché vorrebbe dire che ha fatto molto bene o magari ha vinto qualcosa. Allora, prima di riprendere a parlare con gli ascoltatori, 800240024, di code, dintorni, di orecchiette, dintorni, volendo di calcio e sport e dintorni, che sarebbe pure meglio. Allora, oggi giovedì 4 settembre, ieri 3 settembre, sono, come sapete, due giorni non banali per quelli che seguono lo sport e questo sport in particolare. Ieri abbiamo ricordato i 25 anni della scomparsa di Gaetano Scirea, oggi ricorre l'ottavo anniversario della scomparsa di un altro grandissimo giocatore e grandissimo uomo, Giacinto Facchetti. È stato ricordato questa mattina da Giovanni Minoli nel suo programma, e allora risentiamo un estratto. Che sentimenti prova prima della partita? Prima di entrare in campo si provano tante cose, prima di tutto è il desiderio di vincere, poi c'è la rabbia agonistica, quella di sopraffare l'avversario, e infine c'è un po' di paura. Come reagisci quando ha questa paura, questo timore? Quando c'è questo timore viene più voglia di giocare bene, c'è più concentrazione, quindi penso che le migliori prestazioni si diano quando c'è un po' di questa paura. Questa intervista è stata fatta riascoltare in Mix 24 La Storia questa mattina da Giovanni Minoli. Se potete, avete tempo, avete voglia, oppure trovate tempo e voglia, andate a riascoltarvela. Intanto vedo che anche i bookmakers credono in Conte, credono nell'Italia. Snail da favorita nella partita contro l'Olanda in questo debutto di Conte, pur ricordando che è dal 98 che un CT debuttante non vince la partita d'esordio. Ebbene, le quote sono 2,35 vittoria italiana, 3,20 il pareggio, 3 per la vittoria degli Orange senza orecchiette. Emanuele da Padova, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti, ciao. No, io stavo leggendo un messaggio di un ascoltatore che dice che Bip dici Pennetta non ha visto la palla, magari ha vinto l'Errani ieri, ha perso 6-0-6-1 come sappiamo, sono, ricordiamolo, quarti di finale degli US Open, quindi non esattamente torneo parrocchiale, e già vedere due delle nostre lì è un bel vedere. Pennetta non ha visto la palla, ma secondo set, i primi due game del secondo set non ha visto la palla Flavia Pennetta. Beh, lei ha vinto 5 game con Serena, dai, non è male. No, ma al di là dei 5 game con Serena, non so se hai visto la partita. No, io sì. Allora, i primi 4 giochi del secondo set sono stati meravigliosi, hanno giocato alla pari e hanno giocato su un grandissimo livello. Un numero impressionante di ace da una parte e dall'altra. Se poi la Pennetta non ha visto la palla, io in quei 4 giochi allora sono rincoglionito io. Poi è vero che Serena ha cominciato a picchiare e sbagliando nulla, e ha piazzato un parziale di 14-1. Lì non ha visto la palla la Pennetta, non avrebbe visto la palla nessun'altra giocatrice del mondo in quel momento. Penso anch'io. Ho visto altra gente che per il primo set non ha visto la palla, che era Little Volley contro la Francia, che aveva fatto veramente pietà i primi due set. Sì, poi però, una volta, ne abbiamo parlato ieri con Zorzi, no? Dopo aver toccato il fondo del burrone, e con Berruto che ha rimescolato un po' tutto, bravi a ritrovare il filo del discorso quando tutto sembrava perduto. Deve aver cambiato idea Berruto sulle sostituzioni, perché la volta scorsa aveva detto il contrario. Sì. Adesso sarà interessante vedere i prossimi giri per capire se veramente ha cambiato idea. Non so, non li vedo molto bene, ad essere sincero. È vero che non ha un parco giocatori di livelli degli anni passati, ma ho visto anche idee poco chiare tatticamente e tecnicamente, ma non era di questo che volevo parlare, a dire il vero. No, volevo solo sottolineare una cosa che mi sembrava molto interessante. Stasera vedremo come coppia di attaccanti nella nazionale italiana due giocatori che Conte non ha voluto neanche come quarta o quinta punta alla Juventus durante gli ultimi due anni, perché ricordiamo che Zaza è di proprietà della Juve, Immobile lo è stato fino a quest'estate. Anche Zaza era di proprietà della Juve. Ah, ok, non sapevo questo. No, tra l'altro Zaza è stata un'operazione di mercato interessante con il Sassuolo, perché la Juventus l'ha ceduto a titolo definitivo, non ricordo la cifra esatta, ma mi sembra sugli 8-9 milioni di euro. Però è già stato fissato il prezzo di un possibile riscatto, ovviamente più alto, al termine della prossima stagione e di quella dopo ancora. Mettiamo che, ripeto, non ricordo le cifre esatte perché no, però è il concetto dell'operazione che è interessante, cioè te lo do a titolo definitivo per questi soldi, se poi voglio ricomprarlo ne ho diritto e al termine della prossima stagione lo posso ricomprare, mettiamo per 15, e tra due stagioni lo posso ricomprare per 20, questo è per inciso, Emanuele, poi dimmi. Che la Juve ha fatto per Morata con il Real Madrid, mi sembra di ricordare. L'hanno preso per 20 e se lo vogliono riscattare quelli del Real vogliono 35, per ce ne vorranno 35-36. Interessante. Però dicevi? No, mi sorprende che non sia stato convocato anche Berardi invece che Zaza, vista la passata stagione fatta bene, ma anche se parzialmente, perché alla fine poi se vai a vedere gol presenze di Berardi ha concentrato tutti i suoi gol in pochissime partite. Sì. Però vediamo. Comunque c'è un maledetto vizio delle squadre italiane che esiste da tempo, che è quello di non far giocare i propri giovani del settore giovanile come quarta o quinta punta, sesto, settimo centrocampista, quinto, sesto difensore in rosa, cosa che per esempio le squadre inglesi fanno tutte, il Barcellona ovviamente è l'esempio classico di questo stile di organizzazione, cosa che in Italia invece non avviene, e che invece secondo me, invece che prendere l'Anelka e il Bentner di turno a gennaio, campionato in corso, fai prima a tenerti un Gabbiadini, uno Zaza, un Berardi in casa. E a fargli fare presenze, ma fargli fare magari. Sì, però allora, questa è una questione, è vero, è una questione di mentalità, ed è una questione di mentalità molto radicata. È anche vero che se io ho un giocatore in casa in cui credo, e non per questo, ragioni di mentalità, di quello che vuoi, non ritengo che possa trovare spazio nel mio club, allora trovo dannatamente giusto mandarlo da altre parti a giocare, perché i giocatori hanno bisogno di, i giovani giocatori hanno bisogno di giocare, hanno bisogno di giocare con i grandi, hanno bisogno di scornarsi, hanno bisogno non di allenamento ma di partita, perché soltanto in quel modo puoi capire se uno è o può diventare un giocatore vero oppure no. Quindi il discorso di questo discorso, invece di fargli fare la quinta punta alla Juventus giocando tre partite di Coppa Italia, no, allora io credo in Gabbiadini, in Zaza, in Berardi, in questi giocatori li prendo e li, a costo di rimetterci dei soldi, li mando a giocare là con la garanzia che là giocheranno, perché voglio questa garanzia, che troveranno spazio, troveranno minuti, non importa se in Serie A, dove in Serie A, in Serie B, in Serie C, i giocatori hanno bisogno di giocare. Poi da noi non giocano, ripeto, per questioni perverse di mentalità, di quello che volete, e per ragioni che in parte conosciamo, in parte no, però il ragionamento di darli comunque, di cederli, di consentirgli di giocare in altre squadre, in altri campionati, lo trovo assolutamente corretto. Fabio Roma, buongiorno. Buonasera gente, Fabio da Roma, tifoso Granata. Sì, mi dica. Volevo parlare del fatto di Del Piero che va a giocare in India. Mm-hmm. Per 1,5 milioni di euro. Fa benissimo, 1,5 milioni di euro, 3 mesi. Allora il signor Del Piero, appunto, ha perso l'occasione appunto di dimostrare che coniglio bagnato, come diceva l'avvocato. No, coniglio bagnato, coniglio bagnato era un altro, era un altro numero, sì, 10, era Roberto Baggio. Sì. Mm? E il fatto appunto poteva rifiutare elegantemente appunto per il fatto dei Marò. Sì, su questo faceva una grossa operazione mediatica. Sì, sì, sì, sì, sì. Su questo si è al palco, diciamo, si è creata una però a quel punto avrebbe potuto anche tornare indietro Colomba, che si è portato il figlio. I Della Valle, potremmo mettere in discussione il fatto che i Della Valle abbiano un club da quelle parti. Sappiamo bene come si sia creata questa polemica, in parte pretestuosa, in parte demagogica, in parte no, quanto alla scelta di Del Piero, e al netto di queste considerazioni, io sfido chiunque di voi. Vi danno 1,5 milioni di euro per 3 mesi per andare a giocare in India. Ditemi voi, in tutta onestà, se avreste fatto come Del Piero oppure no. Se mi dite di no, siete dei bugiardi. Ok? Va bene, voglio parlare di un sardo invece adesso. Contador in passato, ma se gli dà Alberto una botta, Contador, Valverde, Aru, sono tutti se lì. Gli dà una botta Fabio Aru, mi sa che questa volta potrebbe anche andare via. È partito Fabio Aru, grande Fabio Aru all'ultimo chilometro, ale. Aveva guardato in faccia i suoi che si chiamano Contador, Uran, i più forti al mondo, Valverde, 100 metri signori, Fabio Aru a 3 ore e 40 di corsa, lì a tutti dietro c'è Contador che prova a rientrare, ci sono ancora 80 metri per Fabio Aru, spingi Fabio, anche aio, per la mono, aio. E non ti prendono, signori, più Fabietto, aio! Fabio Aru, per me è una sorpresa incredibile, insomma non mi aspettavo di poter vincere, anche se mi sono preparato molto bene, io ho sempre tanta voglia, insomma non guardo mai a quello che faccio anche dopo il giro, insomma ho riposato un po' e poi mi sono subito preparato bene per questa seconda parte di stagione senza guardare quello che avevo fatto, e così sarà anche dopo questa vittoria, insomma penso che ogni gara che fai devi cercare di aver fame e cercare di portare a casa il migliore risultato possibile, giorno per giorno vedremo cosa posso fare, non so ancora perché per la prima volta che faccio due grandi corse tappe nella stessa stagione, la prima volta che faccio la Vuelta, e quindi non so come posso andare. D'altra parte le autostrade italiane sono le più belle, le più panoramiche, le più scenografiche del mondo, se avete provato a viaggiare al di fuori dei nostri confini lo sapete benissimo. Pier Augusto Stagi, ciao! Ciao Carlo, buon pomeriggio. Qual è la tua coda preferita in autostrada? Questo è l'argomento del giorno, oltre alle orecchiette che sono state vietate alla nazionale olandese. La coda preferita? Dove preferisci? No, capito, la vaccinara, ma se sei anche di un altro ascoltatore, pure la mia. Se sei in coda in macchina, dove vuoi essere? Nogarole Rocca, Ronco Bilaccio, sul raccordo anulare. Costiera Amalfitana. Questa è una scelta saggia da Positano. Parte tua. Positano, eh. Fermo. Anzi, proprio fermo, mi fermo e non voglio che non ci sia più risoluzione. Non si ferma Fabio Aru. A proposito, nell'Under 21 che domani gioca una partita importante contro la Serbia, qualificazione playoff dell'Europeo 2015 di categoria, ci sono quattro giocatori del Cagliari: Cragno, che è il portiere, Murru, Krisetic e Longo. E quindi io direi è l'anno degli isolani, attenti a questi ragazzi. Dimmi di Aru. Che ieri ci ha fatto veramente gioire. Mi sembra hai fatto risentire la cronaca di Eurosport di Salvo Aiello e Riccardo Magrini. Mi sembra che abbiano messo cuore e energia sufficiente per far capire quello che questo ragazzo ha fatto. Ha appena compiuto 24 anni, l'abbiamo scoperto in maniera compiuta al Giro d'Italia solo 3 mesi fa, con una bellissima vittoria a Montecampione, ma soprattutto con un terzo posto finale che ci lasciava soddisfatti e speranzosi. Ora è alla Vuelta, è la prima volta nella sua carriera che disputa due grandi giri così importanti come un Giro d'Italia e una Vuelta in Spagna, che sono corse massacranti, estremamente difficili da assorbire, corse di 3 settimane, e si sta comportando discretamente bene. E a metà dell'opera, ieri ha preso la soddisfazione di vincere una tappa vera, e l'ha vista, con tutto il rispetto per i partecipanti del Giro d'Italia, che comunque è scattato in faccia al Giro d'Italia, ricordiamoci, a Nairo Quintana, che non è un signor nessuno, sì. Ma ieri si è tolto la soddisfazione di scattare in faccia a Contador, a Froome, a Joaquin Rodriguez, a Uran, che era anche al Giro d'Italia, cioè al meglio del ciclismo mondiale, fatta eccezione per Vincenzo Nibali, che in questo momento si sta preparando per essere perlomeno competitivo per il campionato mondiale di Ponferrada il 28 di settembre. Deve ancora arrivare però il bello. Lui in classifica generale Aru è settimo e ha 2 minuti e poco più di distacco dalla maglia rossa Alberto Contador, ma sabato, domenica e lunedì ci sono 3 tappe micidiali. Quindi chi ama il ciclismo e spera in questo ragazzo di Villa Cidro, ecco, si piazzi sul divano, prenda una bella bibita, sceglia la bibita che vuole, va bene anche il whisky, ma non esagerate, e poi accomodatevi e lasciatevi guidare. E lasciate fare. Lasciatevi servire. Ma poi magari qualcuno dice, ah beh, però fa così perché Nairo Quintana è caduto, si è ritirato. No, stessa storia di Nibali, no? Perché non c'era Frome, non c'era Contador, non c'era mio zio. In ogni caso, chi ha visto la gara ieri l'ha vista concretamente, non l'hanno lasciato vincere, anzi, a un certo punto lui prova 1,5 km, lui in questo caso è Fabio Aru, prova, fa un allungo 1,5 km, lo vanno a riprendere, poi ci prova Chris Froome, lo va a prendere Contador, prova lui con un contrattacco e vanno a riprendere anche Contador, a quel punto parte secco per la seconda volta il buon Fabio Aru, uno che tra l'altro ci è rimasto malissimo perché era lì prontissimo, la squadra aveva lavorato tantissimo e andava alla ricerca di una vittoria che gli risollevasse un po' il morale, era proprio lo spagnolo Purito Rodriguez, che invece anche ieri si è dovuto accontentare di un piazzamento. Cioè, ieri ha fatto un grande numero, di alta scuola, ribadisco, è un ragazzo di 24 anni, deve maturare ancora molto, però sta facendo vedere cose strabilianti, perché ha coraggio, talento da vendere, è un ragazzo che noi abbiamo Nibali, ricordiamoci, abbiamo Nibali, ma subito dietro abbiamo quest'altro ragazzo che può garantirci un gran bel futuro, sì, poi e ce l'abbiamo noi. È un ragazzo col cervello, un ragazzo per bene, eccetera, eccetera. Ma poi ci sono mille motivi per sorridere, sai, l'Italia è piena di musoni, di gente mai contenta, eccetera. Però onestamente c'è un sacco di motivi per essere strafelici di una stagione straordinaria del ciclismo italiano. Abbiamo visto e stiamo vedendo sbocciare Aru, abbiamo visto Nibali vincere il Tour de France, questo è il massimo possibile assoluto. Volendo guardare, c'è anche Caruso decimo in classifica generale alla Vuelta, a 3.51 da Contador, volendo. Ma ti dico di più, ma volendo guardare dietro a questo i ragazzi di 24 anni, ce ne sono una nuova nidiata di ragazzi del 90-91 molto interessanti. Dico Valerio Conti, che stava disputando la Vuelta, il suo primo, corre col numero uno perché è stato messo inserito all'ultimo minuto dalla Lampreda, perché hanno dovuto fermare Chris Froome che non stava bene e l'ha sostituito, ma un ragazzo giovanissimo. Abbiamo Formolo, un altro ragazzo che per le corse a tappe. Ma com'è che improvvisamente ci siamo rimessi a produrre corridori? No, perché bisogna dare la ricetta a quelli del calcio a questo punto. Com'è che i settori giovanili adesso improvvisamente funzionano? Dopo un lungo periodo di buio adesso torniamo a produrre corridori. Che è successo? Hanno trovato la bacchetta magica? No, il problema è che grazie al cielo abbiamo delle mamme che producono bene. È tutto un discorso di mamme. Io credo che anche nel calcio e negli altri sport valga più o meno lo stesso discorso. Credo proprio di sì. Però, non so, probabilmente io credo che da un lato noi uso un plurale mentale, per noi ciclismo ci buttiamo un po' giù perché come livello medio, perché poi ci sono i corridori come Nibali che guadagnano 4 milioni di euro netti a stagione, quindi non si può dire ciclismo povero, però gli ridà una formazione stato kazaka. E in Italia si fa fatica ad avere delle squadre, si fa fatica a organizzare delle corse, c'è un problema proprio strutturale. E cosa porta? Porta che i ragazzi non si fanno grandi illusioni, corrono per passione e sono già contenti che gli dai una bicicletta e una maglia. Nel calcio forse gli si dà anche un po' troppo. E credo che abbiano un po' la pancia, cioè nello sport la prima cosa, questo non voglio fare un po' il passatista, però bisogna avere fame. Se tu sazi, ciao. Certo, e bisogna avere coraggio e magari andare a correre come hanno fatto il corridore italiano da altre parti. Fabio Aru ieri l'ha detto ancora, ho fame. Certo, se no è un ragazzo che non batti questa gente. Papà e mamma, che sono due persone che lavorano la terra ma sono laureati tutte e due, gli pagavano il biglietto aereo tutte le settimane per far venire correre il loro figliolo in continente. Aveva 15 anni, lo mandavano a correre prima in Emilia Romagna per una società piccolina bolognese, poi in Lombardia. Adesso tant'è vero che è stato adottato ed è un lombardo perché vive a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo, però hanno fatto dei sacrifici e li ha fatti soprattutto lui per la grande passione. Devi avere passione e voglia di arrivare. Certo, non è tutto, perché poi come ti ho detto bisogna avere metodo, talento, DNA. Però intanto ci vuole la fame. Se tu a 15-16 anni, perché palleggiano bene, si smarcano bene senza la palla, fanno le ripartenze giuste, dici questo è il nuovo Messi, e lo paghi come non paghi un corridore d'alto livello nel mondo del ciclismo, secondo me li rovini invece che incentivare il loro talento. Certo, grazie Pier, ti abbraccio. Grazie a voi, ciao, alla prossima. Ciao. Pier Augusto Stagi. Allora, no, io bugiardo lo dico a chi voglio, tanto per gradire, ma soprattutto lo dico a chi dice che afferma che avrebbe rinunciato a 1,5 milioni di euro per giocare 3 mesi in India in omaggio a chissà quale principio o ideale, eccetera. Se qualcuno è in grado di dirmi, viene qui, lo convoco 800240024, mi dice no, io non vado a giocare in India per 1,5 milioni di euro 3 mesi perché non voglio farmi portatore di, o meglio voglio farmi portatore di certe istanze più o meno politiche. Del Piero è un professionista, è un giocatore di calcio, ha ancora voglia di giocare, ha ancora la possibilità di guadagnare dei soldi, ha fatto benissimo ad accettare 1,5 milioni di euro per andare a giocare 3 mesi in India. così come ha fatto benissimo andarci Colomba, ha fatto bene andarci Trezeguet. È chiaro che è solo una questione economica, è solo una questione di soldi, e questi sono professionisti e fanno il loro mestiere, punto. Questo è ciò che penso. Se volete, però, siamo qui anche domani, domani puntata numero 500, perché è epoca di celebrazioni per tutti i convocati. A proposito, grazie a tutti voi. Puntata numero 500 di Tutti Convocati, domani alle 14 vi aspettiamo. Io, Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Claudio Schiattoni in redazione. Ciao! Non sbagliate mai, quadrupede! Scegliete sempre il ciuccio! Ehi, stronzo! Era mia la linea, e anche la curva. Vuoi dire quella curva che alla fine volevi farti tutta a marcia indietro? Secondo me non le piacevi. Quella manovra era da suicidio. Se io non avessi frenato, ci saremmo ammazzati. Ma non è successo, o sbaglio? Grazie al tuo impeccabile istinto di sopravvivenza. Vaffanculo! Come ti chiami? James Simon Wallis Hunt. Non lo dimenticare, crocco del cazzo. Diavol, non dimenticare il suo nome. Ed è molto semplice. Altrimenti detto, schianto! Termine che alzi di calza a pennello.